C'è una frase che gli arabi ancora non ci perdonano, perché chi li conosce sa che hanno la memoria lunga, soprattutto per quelle che ritengono vere e proprie offese. È la frase che il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi pronunciò esattamente 3 anni fa, alla fine di settembre del 2001, quando a Berlino parlò di una presunta superiorità della civiltà occidentale rispetto a quella islamica. Le reazioni furono veementi e Berlusconi provò a mitigarle dando la colpa ai giornalisti che avevano estrapolato, secondo lui, la sua frase dal contesto. Quale che sia stata la versione reale di quell'episodio, un fatto fu chiaro. Allora e purtroppo ancora oggi, a ben 3 anni di distanza, quella frase, vera o mal riportata, è costata cara, molto cara, alla nostra immagine e alla nostra capacità diplomatica nei confronti del mondo arabo, moderato o meno. Il prezzo che stiamo pagando è frutto di un cambiamento più sostanziale della politica italiana verso l'intero mondo arabo, ormai diversa da quella tradizionale, seguita per tutto questo lungo dopoguerra, di cui Giulio Andreotti, più volte capo del governo e ministro degli esteri, è stato il rappresentante più autorevole. Ora Andreotti alla Farnesina non c'è più, anche se i cosiddetti andreottiani sono ancora, per il momento almeno, insediati in alcuni posti delicati e importanti per la nostra politica mediorientale. Ma la nostalgia per la sua capacità di essere amico degli arabi senza rinnegare Israele nell'atlantismo si sente e come, anche da settori politici molto distanti dalla vecchia DC, come alcune voci del volontariato internazionale della sinistra estrema. In questi ultimi 3 anni, invece, gli arabi hanno percepito non tanto un'Italia amica quanto un'Italia ambigua, appiattita sulla politica dell'amministrazione Bush e incline a esternazioni poco felici, poco rispettose e poco colte da parte di numerosi esponenti del governo e della maggioranza verso l'Islam e gli arabi. E nello stesso tempo nelle dichiarazioni formali del ministro Franco Fattini, migliore amica di Israele in Europa e ponte tra gli arabi moderati e il resto del mondo. Una strategia questa che però non ha sortito gli effetti sperati, anzi, da una parte il terrorismo islamista ha preso come alibi le vecchie frasi di Berlusconi per lanciare attacchi inusitati all'Italia e agli italiani, dall'altra anche gli arabi più laici e moderati continuano a rimproverarci. A salvarci nel rapporto con loro solo la posizione del Papa contro la guerra in Iraq e per il dialogo con l'Islam, per ricordarci di una presenza cristiana che in Medio Oriente è sempre più in pericolo e non solo per l'integralismo islamico. Paola Caridi da Gerusalemme.